America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington, Mario Platero. Mi trovo nella capitale perché abbiamo avuto ieri una giornata molto particolare, una giornata in cui c'è stata, secondo me, la svolta politica da un punto di vista materiale e concreto del presidente Obama verso il centro. Il messaggio è che questo presidente intende governare lavorando con i repubblicani, ha raggiunto un compromesso per prolungare i tagli fiscali introdotti 10 anni fa dal presidente Bush, che sarebbero scaduti il 1 gennaio, ha ottenuto delle concessioni in cambio, potrà prolungare i sussidi per la disoccupazione per 13 mesi, dunque c'è stato un dialogo, per la prima volta un dialogo bipartisan fra i due partiti, e questo però non è piaciuto all'ala sinistra del Partito Democratico, ritiene che il presidente abbia ceduto troppo. A Washington c'è anche la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, ha avuto degli incontri a livello politico con esponenti dell'amministrazione e con esponenti del Fondo Monetario, della Banca Mondiale, per portare un po' l'immagine dell'Italia in un momento politico difficile per il nostro paese, ma soprattutto sentiamola adesso in una intervista che ho fatto con lei subito dopo un intervento alla Brookings Institution qui a Washington, un think tank americano, dove appunto la Marcegaglia ha parlato dell'Italia e delle iniziative della nostra economia. Presidente Marcegaglia, buongiorno qui a Washington. Buongiorno. Sergio Marchionne, provocatorio come sempre, ha fatto dichiarazioni in cui intanto ha detto che discuterà con lei nei prossimi giorni se procedere in questo negoziato con Confindustria o senza Confindustria, e poi naturalmente ha attaccato le rigidità strutturali e sindacali del nostro paese, il fatto che è difficile essere concorrenziali sul piano internazionale e addirittura che chissà, forse Mirafiori può andare a Detroit. Ecco, qual è la sua posizione su queste dichiarazioni e che cosa dirà a Marchionne quando lo vede domani o dopodomani? Ma guardi, io da quando sono diventata presidente di Confindustria mi sono posta come un obiettivo fondamentale quello proprio di cambiare le relazioni sindacali, il modo in cui noi ci poniamo con i sindacati. Abbiamo fatto alcuni passi, abbiamo fatto una revisione degli assetti contrattuali, abbiamo fatto deroghe al contratto dei metalmeccanici, quindi questo è un percorso che noi stiamo facendo e lo supportiamo non solo per la Fiat, ma lo facciamo per tutte le imprese italiane, perché pensiamo che sia un elemento fondamentale. Fiat ha un problema specifico, lo ha detto Marchionne, deve garantire a Chrysler, al sinistro di Chrysler, l'assoluta controllo della gestione dello stabilimento specifico di Mirafiori. Ovviamente, come dire, Confindustria è un'associazione in cui ci si associa volontariamente, quindi noi non obblighiamo nessuno ad associarsi o stare associati. Quello che a me piacerebbe è che troviamo un meccanismo che va incontro alle esigenze della Fiat, e ribadisco, noi lavoriamo per tutte le imprese italiane, quindi anche per tutte le altre imprese italiane insieme, quindi noi ci vedremo giovedì, lavoreremo, noi abbiamo delle idee, in questo momento noi non parliamo perché vogliamo prima ragionare e capire bene che cosa si può fare, ci vedremo tra giovedì e venerdì, discuteremo in modo molto sereno questo aspetto. E secondo lei che cosa può venire fuori dal vostro incontro? Beh, c'è un tema sul contratto auto sul quale si sta lavorando, che potrebbe essere una delle soluzioni, però ecco, discuteremo, è un tema complesso, il mio compito è quello di venire incontro alle esigenze di una grande impresa come Fiat, che deve anche segnare un'evoluzione complessiva. Ovviamente devo tener conto anche delle esigenze di tutte le altre imprese. Credo che una soluzione, se c'è volontà da parte di entrambi, sia possibile. C'è stata una discussione vivace oggi alla Brookings Institution. Innanzitutto le è stato chiesto qual è la sua posizione nei confronti del governo Berlusconi, una domanda provocatoria: deve uscire, deve lasciare il presidente o no? Io ho detto appunto che non è il ruolo di Confindustria indicare le strade alla politica, nel senso dire questo governo sì, questo capo del governo sì o questo no. Quello che però per noi è molto importante, lo continuiamo a dire e lo dico anche oggi e l'ho detto qui alla Brookings, è che in un momento come questo, dove ci sono turbulenze sui mercati finanziari, dove si sta comunque affrontando una competizione internazionale molto forte, abbiamo parlato anche dei rapporti con la Cina, ecco, il paese non può rimanere non governato, quindi noi siamo contrari a qualsiasi ipotesi dove ci siano governi che non sono in grado di governare, siano essi tecnici, siano essi l'attuale governo troppo risicato. Cioè è importante che qualsiasi scelta si faccia sia una scelta in cui c'è veramente la possibilità di avere un governo nella pienezza del suo ruolo, che governi, faccia riforme, che sono quelle che ci servono, facciano le cose che sono necessarie in un momento complicato e difficile come questo. Ecco, un momento complicato e difficile, ci sono un po' di iniziative, c'è l'idea dell'e-bond, della lanciata Tremonti, ci sono resistenze europee, c'è la proposta di Draghi. Ecco, qual è la sua posizione su questo? Ma noi da sempre siamo a favore del, prima li chiamavamo Euro bonds, adesso si chiamano e-bonds, però noi siamo assolutamente a favore di un'iniziativa come questa. Sarebbe un modo per dare un sostegno vero, concreto e di medio termine all'euro, sarebbe un passo in avanti ulteriore a una unione complessiva dell'area europea, quindi a me sembra veramente un'idea molto positiva. Al momento la Germania ha una posizione non positiva, anche la Commissione, almeno per una parte nella discussione, non è stata positiva, però io credo che è molto importante avere rimesso questo argomento al centro dell'attenzione. Il ministro Tremonti diceva è una proposta che farà importante, che farà strada. Ecco, io sono positiva, riporteremo anche questo tema alla discussione di Business Europe, degli incontri tra le federazioni del business europee, e quindi questo è molto attuale. Sul tema della crescita di Draghi, noi da sempre lo diciamo, serve, come dire, rigore nei conti pubblici, ma serve anche tornare a crescere, perché le due cose sono fondamentali. Ultima domanda, quote rosa, ne avete parlato alla Brookings, ma le direttive imposte dall'alto non le piacciono, mi è sembrato di capire. Premesso che io sono una grande sostenitrice del ruolo delle donne in generale in un paese come l'Italia nella partecipazione al mercato del lavoro, questo porterebbe a più crescita, porterebbe a maggiore domanda interna, porterebbe a valorizzare cervelli, talenti, quindi io sono assolutamente a supporto di questo. Sono però normalmente abbastanza contraria a leggi imposte con rigidità e soprattutto senza la giusta gradualità, cioè passare da una situazione in cui le donne nei consigli di amministrazione credo siano il 5% al 33% in un colpo rischia di, come dire, portare a una serie di situazioni in cui appunto poi per venire incontro alla legge magari si fanno delle cose un po' strane, no? Quindi, ma in generale insomma noi siamo abbastanza contrari a rigidità poste dalle leggi. Detto questo, siamo invece a favore di un concetto che porti una maggiore coinvolgimento delle donne nel mercato del lavoro, nei consigli di amministrazione e nella gestione delle imprese. Bene, arrivederla. Buongiorno. Grazie, arrivederci. Altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Il gruppo americano Io la tengo ha organizzato anche quest'anno un festival musicale per gli 8 giorni della festa ebraica di Hanukkah. Tutto esaurito per i concerti di questa band che dal 1 all'8 dicembre è stata accompagnata ogni sera da musicisti diversi. Ecco una loro vecchia canzone di Io la tengo, Today is the Day. Vi saluto e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.